detto? La PMR, sì. Eh? Facendo. Che facendo c'è? E tu facendo sta? Facendo colazione. Cioè Maria mi ha mandato una mela poco fa. Una solo? Ehi, ha una mela verde pallida. È vero. Ehi, ha le facce di campagna azzurra. Madura. Ehi, una solo ce n'era nell'albero. Luca. Vabbè, là. Non è arrivato niente, ciao. Sta, poi arrivo, ti mando subito il messaggio. Vabbè. Insomma, che non sia a casa, capito? Vabbè, tu manda un messaggio quando ti arriva. Ciao, ciao, grazie. Adesso controllo per dov'è, aspetta. Ah? Ho detto che controllo per vedere dov'è. E io con Agio Brescia, volevo sapere se avevi notizie o mi interessi. Tanto ho già spostato tutto io. Va bene, vai, ci sentiamo, fammi sapere. Ciao, ciao, grazie. Ciao Claudio, buona passeggiata. Altrettanto, su, ciao. Luca, mormito sì. Allora, qua dice, consegna stimata, 31 o 6 febbraio. 31 o 6 febbraio? Che vuol dire 31 o 6 febbraio? 31 gennaio o 6 febbraio? Vabbè, no, tanto io ho già spostato il computer. Ci ho spostato tutto, manca solo quel cavo per accenderlo, capito? Ok, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao, Claudio. Ciao, ciao. E beh, Luca, mangiando sì. Aspetta, la tua lemata sta a foto. Ah, PMR, c'è, sì. Che foto? Ma pensavo avessi mandato una foto. Stai parlando di foto. Su WhatsApp. Boh, può darsi. Stamattina, boh. Adesso, ma se mi hai scritto se avevo PMR acceso. Io l'accendo verso le 5 e mezza, sono a casa, capito? Ah, quello sì, se c'avevi PMR acceso, sì. Cosa? Cosa eri? Non mi ricordo adesso, non me lo ricordo più. No, me lo ricordo più. Ho detto, forse che ti ho mandato qualche messaggio stamattina, boh. Tu mi hai scritto adesso, come stai parlando della mela, no? Pensavo avessi mandato la foto della mela. Invece mi hai scritto se c'avevo il PMR acceso adesso. Mi hai mandato un messaggio 5 minuti fa. Ehi, del PMR acceso, no, la mela non te l'ho mandata. Siccome ho visto c'era una chiamata a Gio Maria, ho guardato. Su WhatsApp è vera una mela e boom, non vera cresciuta, vera è la mela e boom. E ne ha già cancellata, ha detto, boh, sarà di campagna azzurra. Mandala. E l'ho cancellata, io non me la tengo a fare, una mela mi tengo. Mi c'è stata una femmina, me la mia testa. E tu hanno un video da qui? Sì. Luca! Sì, grazie. Facendo sì. Ho capito, no? Cosa stai facendo? A Luca gliel'ho mandata io una catena di stufe stamattina. Quelle sì che sono stufe. Cosa? Capito. Beh, Luca, te l'ha detto Luca Flippe la stufa che gli ho mandato? No, non gli ho detto niente. Quelle stufe gli ho mandato io già funzionano bene, lei. E poco il calcio, nemmeno, chiediglielo. Però è il coso giusto, bello, chiediglielo a Luca che ti dice che è buona quella su quelle stufe. Ma da YouTube? No, da, non può dappertutto. Già, le ho mandate a lui stamattina. Come mai non è a PMR, non l'ha accesso. Sì, Marilyn, ascolti, sempre i venti. Quello non dorme, capito? Anche dentro durante la notte. Non dorme. Ehi, beh, ci sarà il casino, un burro, un disattuffo, apprezzoni che ha fatto questo. Ma io l'avevo già fatta, però più grande di quella, cosa che ho, in la mela l'ho fatta. Ma capiato, lì c'è un tubetto, quella che ho fatto era grossa. Un barattolo di vernice, la mela. Capito. e poi l'ho fatto con la segatura pressata. Ho preso un barattolo di Diluente Beauty, la mina, che è grande come quelli della tinta bianca. Gli ho fatto un foro in basso, ho messo un pezzo di legno al centro, dentro, l'ho pienato in segatura, l'ho bella pressata con un altro pezzo di legno, poi ho levato il bastone che avevo messo al centro e rimaneva il vuoto. Dallo sportellino che avevo fatto all'esterno, ho acceso da lì e rimaneva tutta la lì, adesso è poco caldia. E il tappo non c'era, era tutto aperto. E la fiamma bruciava girando intorno. Fumo niente. Oh, fumo nulla, niente, ne facevo un 5, 6, 7, ne mettevo in falegnameria, sparsi, per scaldare un po' l'ambiente. A chi la manna la falegnameria, un capannone in mano. E poi ne mettevo uno nella sala messa che c'era freddo, c'era il caminetto, però per non stare a bruciarmi tutta la legna accendevo anche quello. Poi allora a pranzo, 10 minuti prima accendevo il caminetto, e quando entrava la tempo così tanti api. Scusa, quando usavano il bracciere anni addietro, quello lo stesso non levava fumo. No, neanche il bracciere, non ti ricordi il bracciere? Ci mettevi lui diavolo, si chiamava, quel barattolo di pelato e la mela aperto da una parte e dall'altra, lo mettevi sopra il centro del bracciere, no? E non ne facevano, qualche scintilla ogni tanto faceva, scoppiettava, ma fumo non ne fa, lo accendevi fuori, all'inizio fa un po' di fumo. Come acceso il carbone lo mettevi dentro e fumo non è vazia. Io l'ho avuto quello, ha già avuto la colbula col bracciere. Ma che qua me, i primi anni che sono venuto a abitare, ce l'aveva la nonna di Paoletta. Ho capito, io mi ricordo una signora lì in Canada, dietro casa, mi ricordo che l'accendeva, portava fuori. Una signora anziana, ma si è morta, già una di, sarà morta 20 anni fa. Faceva così, lo accendeva fuori, lo faceva accendere bene, poi metteva questo coso al centro, questa latta di pomodoro al centro. E poi lo portava dentro e c'aveva una specie di telaio, una gulbula si chiama, rotonda, con un buco al centro e ci infilavi il bracciere e i piedi li appoggiavi a quella tavola che era rotonda, si chiamava colbula rissa. Esatto, c'aveva due maniglie, una da parte e una dall'altra. Quello è il bracciere, dove lo appoggiavi sopra era un buco di legno fatto in legno rotondo e al centro c'era il buco dove ci incrassavi il bracciere, no? Ho capito. Vabbè, io mi ricordo che questa qua lo portava fuori e se lo accendeva, capito? E poi metteva questa cosa, un coso di pomodoro, aperto da una parte all'altra, lo metteva al centro e poi se lo portava dentro. Questo si chiama Satanese, l'udiaulu. Quello lo metti al centro perché il carbone, lo sai, ogni tanto scoppietta e già fa della scintilla. Metti quello e non è fatto, cioè la fa però non fuoriesce dal barattolo, capito? Ma durava comunque, vero? Con un ferro avvicinavo il carbone in giro, no, già mezzo acceso e mezzo no. Quando vedevi che stava consumando con le mani lo aggiungevi tutto intorno e così via, e a voglia che durava. Ma sono tutti quella cosa, capito? Tutti con le nuove cose, partendo dal condizionatore, alla stufa a pelle, sì. Poi vabbè, come si chiama? L'impianto, vabbè. Il centro di scaldamento normale. Vabbè, gli anni passano, Io penso che un domani, non adesso, un domani proprio non metteranno niente. E le case le fanno bene, bene, bene, con le ventate bene, così il freddo non ne passa. oppure lo metteranno direttamente in una cosa che non si vede niente, lo sotto mari, i mattoni dietro i muri, e scalda la casa. Aspetta che vado in ufficio. E cos'era che c'ha mela che mi hai mandato? Cosa c'hai? Mi hai mandato una mela, si può sa. Oh, e a tempo un pallone, e sembra così piccolo, però un pallone, visto là, così un pelmo la campagna. Ah, mi paglia una mela, un po' fermo, no, non mi piace. Sì, vabbè, per la grandezza, capito, è calcio un pallone, quello è calcio un pallone. Più grande la fotografia a vedersi bene, non sono riuscito, capito? Però è grosso, è maturo veramente, gatto, è una cosa incredibile, gatto. Quando mi uno gatta. Ma a me non mi piace, l'avevo assaggiato una volta, puce e rancido. È quello che fa bene. Quello che fa bene, se mangi quello non si solleva la glicemia, No, no, non mi piace, brutti. Mia Luca gli piace, Luca! Luca deve essere, fai con la fai merenda, deve essere. Vuoi andarti a fare isso, sempre mangiani deve essere. E a chi l'attendi, capito, grazie. Lui sta adattando, ecco perché sta sempre mangiando, si deve mettere su. Sì, io come fa a lattare? E allora, coraggio, rubicine senza denti, gruppi beroni, Lì capiterà che quello lì, il bimbarò, fa parte della precisione, direi. E allora, bu. E allora, bu. È bello, lo sei sentito? No, è già parato cubicando. Gatta, sempre ventenni, sempre ventenni. Lei ventenni buono, guavaggio, ai, ai, ai. Se non fai meglio, meglio che fosse. Ma qua la materia linea. Sì, ma che deve fare un po' di manza. E allora? A rimane a progettare la stufa, a meno che non la sta modificando. Me ne ha fatto vedere 3 o 4. Tanti tipi me l'ha fatto vedere. Evidentemente è intrappolato su quei progetti, capito? E chi c'è Dubongo? La fiamma sempre allerta. E guru manometro segnendi. E allora? Ma se chi se la dà di voce a morire buco l'affacciamento. E la correggia come trantenni. E allora? A meno che non ve le basi una grata di San Giro di diametro, arma come il suo metro. Così quando passi da Rombeghi per non dare di busca. Basta, muro qua, se non fa di peggio. Basta, muro insegnarci a manco, capire che cosa fai. Se non capire se dormi. Oh Luca, mamma Nenni. Deve essere impegnato, va. Vabbè, già sei, se non, che grazia. Già entra, si può entrare. E cosa? Non si è sentito mal BMR, non li vuoi più. Boh, te la sei malato, non sentisi. Se si rubiglia gli abiloghi 70, dai. Ma è garantito anche nuovo, capito? Ancora con lo cielo fa, capito? Ma non lo so così, nonnami. Se andà ancora di nonna, se ne si vede altri, non lo so. Vabbè, se dovessi interessare già è qua. Infatti io vi la giusto, se ti interessa, quando c'è il soldi, vai da Gio Maria, lo chiedo a me, glielo chiedo e ce lo occupi. te lo fa vedere. E adesso vediamo, da prima di sicuro di cui arriverà la cugina, e fai come pure, noi ci sono quelli che non si farà nulla. Ehi, ehi, vedi un po', Luca è bello, Luca, attento il bello, e chi è questo, grazie? Beh, non senta nessuno, avanti. A tratti lo sento, sì che ti sento, chi sei? Oh, ciao Giuseppe, gatta sabbia carina, gatta. Come fa Giuseppe? E vabbè, ma almeno qualche cosa faccio altro. E cosa vuoi fare Giuseppe? Oh, via, per carità, gatto. Aspetta che ti manda Graziano per i saluti, vai Graziano. Non lo sento io, Giommari. Boh, salutalo tu. A me sente a me. Ah, lo senti tu, Graziano Giuseppe? Giuseppe! Ah, Graziano, senti tu, vai! Ah, non ti sento, Graziano, evidentemente, per cui è zona brutta, dai. Ma vabbè, ma va bene, Graziano. Però da te magari è più lontano e non arriva lì. No, non c'è nulla, manco un rumore, niente. Salutalo da parte mia. Ti saluta Giuseppe Graziano. In cucina sei? Cosa hai detto? In cucina sei? Ah, vero, sei in cucina. Grazie, ha detto se sei in cucina, grazie, Giuseppe. Ehi, hai che Giuseppe, boh? E lo Ciro, Ah, poi sono col gommino. E' un gommino senz'altro, E' in cucina, Giuseppe. Ma che lui è col gommino, Lui è con gomino anche per quello, magari da parte di dietro, ecco perché non lo senti per quello, capito Giuseppe? Ehi, ehi, avanti Graziano. Ehi, no, non intendo nulla, niente, zero. C'è qualche ostacolo fra di voi, e non passa. Oh, una marca Santiago 2, però la radio è buonissima, come radio lo sento benissimo, Santiago ce n'è poco e niente, però la radio è buonissima, però da te non arriva. No, da me è zero proprio, non si intende nulla, manco rumorino, niente. Giuseppe, mettiti sulla sedia, sei salito con 4 di segnale e la radio pure è aumentato, non posso essere risceso di nuovo. Ma ti sento bene io, capito? Io ti sento benissimo. Con gommino non si riesce a percepirlo, magari, capito? Forse per quello. Magari con l'antenna esterna qualcuno magari va più forte, chiaro. Ma se con gommino, così che non arriva da Graziano, come non arrivi tu da lui. Fa una prova Graziano per sentirsi, parla. Ehi amico, figlio G, io non ti sento, guarda se mi senti, 1, 2, 3. Adesso ti ha sentito, grazie, adesso ti ha sentito, ho detto. Ma io non lo sento però, Giuseppe. Però tu non arrivi, evidentemente non ti sente Giuseppe. Vediamo un po' se rientra Luca. Luca, ma finito di mangiare hai? Ciao Gio Maria, buonasera. Poi ciao Giuseppe, ma ciao. Ci picchia, ogni tanto mi scappa il nominativo. Buonasera, ben sentito. Graziano mi sembra che è caduto dalla sedia. Graziano, pensi dalla sedia Graziano. È caduto, aspetta di mandare un giro se tu riesci a copiarlo. Vittorio sto dicendo, Vito! Gio Maria, dimmi! Ma tu mi senti bene, mi senti? Abbastanza bene, stavo pensando di passare da te, ma boh, non so neanche dove cavolo abiti. Ma ho capito, no, Vito, ripeti. Aggiunto, stavo volevo passare da te proprio adesso, ma boh, non so neanche se ci sei. Ma dove abiti, di proposito? Mi hanno detto che abiti vicino alla coda, alla Zossi. Ah, aspetta che non ci capisco, Vittore. Aspetta che rientra Graziano che mi fa da ponte. Graziano, accordo Giuseppe, ciao, ci sentiamo, vai, buon presumetto. Saluto in casa, ciao. Aspetta, Graziano. Ehi, dimmi che mi ero spostato. Aspetta, ho comprato Vittorio, Vittorio, ripeti che c'è Graziano che mi fa l'interprete. Ma tu Graziano mi avevi detto tu che Gio Maria abitava vicino alla Conad. Dove abita Gio Maria? Mi ha chiesto dove abiti Gio Maria. Stamattina con la ragazza davanti. Stamattina sei passato vicino su alla Conad, quel supermercato. Vito! Ehi! Ma stamattina ci sei passato lì! No, grazie, sono passato dove c'è il coso, dove c'è anche un asilo c'è anche. Dove c'è l'asilo? Più avanti, vicino dove la coppa abita lui. Dov'è che abita, ripeti, grazie. Ah, oh, c'è la coppa, coppa, cos'è Giovanni? Coppa c'è un coppa, vissà. È la cola, non so dove la cola va. Certo. Io sono a fianco alla Conada. A fianco alla Conada abiti? E allora, proprio sono riuscito dove fermetterla. Dove fermarla qui. Questo si la testa lì e vede la tele mia. C'è anche. Ma sono promodolato. Cosa hai detto? Aggiunto, ma dove c'è anche una farmacia? Dietro, di fronte, c'è la Conad, la farmacia. E tu a Cerugabbi si barati il viso e gli vive l'antenna, ve la vi mandate lo drappuro. Ma vi bottego? Non lo so io che via è quella, se via bottego, sa via bottego quella, Giomari via bottego è quella. Eia, è via bottego, e lui è proprio dove c'è la fermata del tra, a Cerugabbi vedi l'antenna. Vito! Cos'è sta Cinesu? Ma la reccia ti rilavi in un mazzano, ti ho detto che dove c'è la coppa, che dopo la fermata del tram. Ah, ho capito! Ma proprio a fianco, proprio alla Conad. Di fronte, se tu sollevi la testa, vedi l'antenna del baracchino. Capita che il tuo alleno è morto dalla risa. Ho capito, da. Per caso... Vabbè, adesso provo a passare. Quando ci vai, fatti vedere la radio che ti vuoi comprare, te la fa vedere. Eia, eia. Va bene. Gio Maria! Dimmi, ma non mi senti? Gio Maria, dammi tu le indicazioni perché Vittorio sta passando, quindi dovresti aiutarmi un pochettino. Boh, non ho capito, grazie. E quando sei più vicino, chiamalo da più vicino, Vito, quando sei lì alla coppa, se no non ti capisci. Ok, va bene, riprendi un attimo Graziano, poi nel cammino metto in cammino. Ha detto che è passegna, va, Gio Mario, così li fai vedere la radio. Chi sai di voi vinci? Che passegna va? Quando è proprio dove fermetterà, mi chiama, mi deve chiamare che devo scendere giù, L'ha giusto quando sei vicino, a ciamatti. Ti va, non ti intendi male, devi essere, vuoi pure un soldo. A me te lo sento, Gio Maria, da 6 anni te lo sento. Ehi, quando sei lì vicino, lo chiami e ti scende la radio che vuoi vedere e te la fa vedere. Capito hai? Eia, eia. Ma nel frattempo, da, vado a trovarla Gio Maria, voglio conoscerlo un po' di persona. Tu la dici, Gio Maria, cosa dici? Beh, ecco, vedo più tu. A me non mi costa niente, scendi giù perché c'ho tutto il magazzino io. Quando sei lì dove sei metà, mi chiami e io scendo, va bene? Va bene, dai, sono già in cammino, sono già cercando l'oratorio. Sono iniziati da finire, stai muta, siamo qua, sono già alle poste. Cosa ha detto Grazia? Che è in cammino, è vicino alle poste, sta salendo dritto. Lei a Roma è mica, da Rivigisi. E allora si può fare, là, intanto stai per scendere, dai, d'accordo. E portate a presso il PMR, Gio Maria. Chi si imbaglia sempre? C'è il magazzino, c'è l'altro magazzino, quello preciso è tuo. Appena scendo lo accendo. Così ti chiama. Luca, ma dormito ti sì. Luca Manicomio. Sì, Gio Maria, sono vicino alla cona. Capito, Gio Maria? Gio Maria. Ah, mi vedi? Gio Mari! Cos'è Gio Mari? Caccia! Guffo! Eia! Ero in bagno, ero che... Eia! Mi! Vittorio andene da Gio Mari! Gio Maria? Onde sei te? Chi è? Chi è? Che non ti sento! Chi era lui? Vittrudio, Vittrudio! Tutta tratta l'ho sentito! Vitru, Vittorio, mi senti? Ma tu Vitru, mi chiami Vittorio? Ehi, Vittorio, studio, siamo in Chivia, mi senti? Sì, sento, tu dove sei? A casa là, dove sei venuto tu? Gio Maria. Oh. Gio Maria, mi senti? Ti sento, io ti sento bene pure. Ah, magazzino sei. Adesso. Cos'è tu? Ah, Gio Maria, sto dicendo, che magazzino sei, Gio Maria? Yeah, sono in magazzino. Diciamo che è un po' occupa la radio, ti sposti il microfono dalla bocca, è un po' occupa. Ok, adesso bene va. Adesso è più chiara, lo senti grazie a Gio Maria? Sì che lo sento. Ora tu mi senti? Sì, ti sento. Mi senti? Bene, bene. Sono vicino, esattamente vicino alla Conad. E vai a Conad dritto. Il secondo portone dove ci sono le scale. Il secondo portone? C'è la fermata del tram. Ah, ho capito, là. Guarda che lì Gio Maria. Va bene, ok, ci hai avuto, grazie. Ehi, ehi, è il magazzino, è lì. Come mi senti tu, grazie? Ehi, piccolina, con le patatine. Sì, va bene. Sì, poi si guarda, fai che lì capita, mangia una pizza grande anche. Fai anche con... mangi e bevi con 10-12 euro in due, mi. Ehi, già lo so, ma io me la prendo così, mi di quella grandezza qui. Più grande non me la mangio. E sento pure a mangiarmi chissà. Però con le patate non mi piace. A me mi piace la capricciosa. O un'altra chiusa, come si chiama? La che sembra una focaccia. Se però sempre pizza. Il calzone. Il calzone. Mamma mia, quanto è buono. Poi lì non paghi manco il coperto, se sei al caldo. La verità, mangi. Mangi bene, dai, mangi bene. Poi se ti prendi una pizza da 6 euro e poi ti bevi 2-3 birre, il prezzo sale, però te ne vai bello decimo, te ne vai contento. Quella lì, se è quella grande, io il bordo manco lo mangio. Prima mangio quello centrale, poi se ho fame si mangia anche il bordo perché è buono, insomma, biscotto, buono buono. Poi se non ce la faccio lo lascio, lo butto. Già lo so, anche io ho fatto così. Però buona l'ho mangiata anche su lì, dove c'è in via Cavour, lì dove c'è il manicomio, pronte, dalla parte di quei giardini. E c'è un ristorante pizzeria. Ah, ho capito. E niente, no, la verità già si sta bene. Molte volte siamo dove vai, ti vasi mi paga la cadrea e la banca, e poi magari mangi brumari. No, no. Io lì mi trovo bene, mi tratta bene, sa come la voglio. E sono anni che vado, non sono due giorni. Andavo prima anche, prima che di andare con Marina, vedi un po'. Per caso la prendevamo spesso, la gigante. E dov'è questo? Qua, prova le pizze, le porta lì a Santa Maria di Pisa, Nanni Spizza, via Marchinotti. Se vuoi ti passo il numero, provale, sono molto buone. Ah, già lo so, già l'avevo presa un paio di volte. Ah, io le prendo qua quando non esco, alla ruota, e sono buonissime. Ma buona avvedumi, la fai nello stesso. Solo che a domicilio non è fa. Devi andare al telefono, ordini, ci faccio andare, vai te la ricevi. Lo so, lo so. Vabbè, tanto cambiare posto, chi te lo fa fare? Magari spendi di più e mangi male. Va bene così. Non è per un impindì, però mi trovo bene perché le fa buone. Ehi, sono buone anche quelle della ruota. Visto di chi vengono, che l'ha fatta buona la ricomincia, che mi la proprio un pizzaglione. Avanno ben più che c'è un pizzaglione. E le pazienti, mi pare che le penne a pucci cacca, fanno schifo. Non ne bisogna più. Oh. E dove? Però qua che c'è qui vicino al tabacco. All'inizio le stava facendo bene perché c'era il pizzaiolo frutto. Non bevisci il pizzaiolo. A chi l'ha domandato di più non ne l'ha dato e se ne è andato. Chi ci vuole guadagnare su lui e l'altro non deve guadagnare. Infatti io mi la regalda e tu mi affetti. E la di la Giulia fatti a rischio. Tipo, ma non poco no, un bel, non si sa piace con capizzaira, e la capricciosa vela di giù, patate, acciughe, capelli, aggiunti, ma che insomma, che cazzo di capricciosa è? Ha detto che cazzo si ha fatto, l'avanzo di chi ce l'ha avanzato, boh? Ne ha fatto una, da rimani. Non l'ha venduta, l'ha bucato, l'ha bucato gli ingredienti e l'ha portata a te. Vabbè, sarà. Ah, ma che faceva schifo, io non ho mai visto una capricciosa patata un briccio, azzui, capi. Perlomeno quella che ordino io ci sono, cioè la mozzarella, i pomodori, i funghi, le olive e il prosciutto cotto. Oppure c'è prosciutto cotto e anche salsiccia in mezzo, con le olive, senza i funghi. Allora mamma per la capricciosa ha posto delle acciughe, perché Nanni se la mette le acciughe, vuole i, come si chiama, quelli che hai nominato tu adesso, grazie, i capelli. I capri già sono buoni, ma noi mi con il burro battato un briccio in mezzo, da poi mi pare me la bevarone, la gente mai si imbriaco, deve essere il conto, oppure mi ha portato avanti che li sono avanzati, cazzo, e poi cosa mi ha pigliato, ma un po', boh. Lo so, adesso vuoi fare, purtroppo. E gai su conto, ciao Mari. Sta pezzo un cliente a chi non è bisogno. Aveva fatto l'affare. Ava fruscia, a chi non è bisogno. Se ti mando un messaggio, grazie, aspetta. Mi piace vedere in occhio, ma aspetta. Ehi, passa. ca, fuca, ca, piano, ca. Ehi, zio Mari. Ehi, zio Mari, mi senti? Ma io ti sento bene anche. Anch'io ti ascolto bene, però si è soltato la bocca al microfono. Infatti, mi attacco troppo alla bocca, infatti. Adesso bene, mi senti? Ehi, è perfetto, arrivi benissimo, non bene, benissimo. Arrivato è Vittorio. Già l'ho visto, è già arrivato, già. Ok, dai, chiudo, ci sentiamo da casa, dai. Ehi, va bene. Sì, ciao. Ciao, Giovanni. Arrivi da Vittorio. Ehi, guarda. Ehi, mi dico che è ben andata, poi mi dico che tu rendi luce alle siane. Ciao Claudio, ben sentito, già ti ricordi di me? Già? Già mi ricordo, non ti preoccupare. Aiuto, se stai andando per le salesiane. No, tanto per non stare in gioco, ti ha portato le esce in mano, Claudio. Pensavo, è venuto davanti una pulizia municipale di soia. Sgubrito. Non lo mostrare molto quando sei in giro così, cerca di nasconderlo un po' perché secondo che apparecchio è non si può usare, capito? Magari fanno niente, una domanda, è una rottura di scatto. No, vabbè, bisogna stare attenti comunque. Questi, se ti ricordo, sono professionali, questi sono facili che ce l'ho io. Allora, cerca di tenerlo un po' nascosto quando esci in giro. L'hai vista la foto che aveva mandato a Luca? Già me l'aveva fatto vedere quando era a casa sua. Adesso vai da Claudio, domani sali da Claudio, a piedi però piano. Già ti invita a Claudio, ti fa vedere le sue radio, vai. E come mi dice lo drampo, è un po' più lontano da te. Vabbè, già a me che finanza, tranquillo. Beato te. Quando vuoi non ce n'è problema. Quella è una minima parte. Mi manca l'altra parte che l'ho già messa dentro l'armadio. Però, Vitto, anni di sacrifici, 25 anni da radioamatore e 40 anni già. Ho iniziato che avevo 14 anni, quindi. Vabbè, sì, già, sono qua. Va bene. Ci vuole buona volontà a fare le cose. È passione. Ok, dai, divertitevi, ci sentiamo. Che vado a vedermi un po' di TV. Ciao a tutti. Ciao, bravo, buona serata. Quando ha tempo, vabbè, un po' lontano a salire da te. Un po', a piedi ci metterà un'ora minimo. Vabbè, un'ora no, a mezz'ora buona ce la mette. A Carbonati, allora, dove sono i Carbonati? Adesso si piglia il tram, va un attimino da Claudio, una mezz'oretta, poi 20 minuti, ti fa vedere la stazione. E così ti ricchi un po' i baffi. Ah, le mucchiate si va. E allora già va bene. E lui lascia cose che io a volte ci sono e non ci sono, a volte sono in campagna, a volte a quest'ora io sono a casa, la sera così, 6:30, 6:00, 7:00, dipende, 5:00, ma se è bella giornata, durante il giorno non ci sono mai, capito? Comunque quando vuole ci mettiamo d'accordo, non c'è ne problema. Oh, tanto quel cavo non l'ho trovato, allucinante, perché pensare lo usavo ai primi tempi che avevo preso il primo computer da Franco, no? Siccome non avevo connessione, tramite la penna wifi la mettevo nella finestra, piano piano mi giocavo e riuscivo a connettermi un'oretta, un paio d'ore. Oh, non so che fine ha fatto, ho trovato solo quello Ethernet, che è quello che uso, che nel cassetto lì c'ho due scrivanie io, no? C'ho un po' di pezzi di telefoni, cavetti e cavettini, ma chi su quel più non fa? Bello bene! Delinquente. L'ho comprato, te l'ho detto, l'ho trovato, da 3 metri addirittura. Ed è meglio così perché l'ho fatto girare dietro dove ci sono le radio, non si vede niente, capito? e il connettore ce l'ho a vista, in modo che se devo staccarlo per pulire la tastiera lo posso staccare senza stare a cercarlo. Già va bene. Adesso aspettiamo un altro e poi è tutto pronto. L'altra base intanto l'ho tolta, ce l'ho portata su in mansarda, ho lasciato solo una base con le radio, quelle che hai visto, e boh. Ehi, claro, grazie a ne cuocuomale, capito? Intanto si perde, però grazie. Ah, io non devo rinunciare, devi vedere una famiglia, vuoi dare giura. Beh, molti siete, belli bene. Io non sono caduto, no, grazie, sono qua. Ti ho rilanciato. Graziano, sì, mi ha fatto vedere quello che mi voleva vedere. Oh, ma è bello, bellissimo. C'ha tutti i cavi, è bello nuovo, c'ha anche un graffio. Sì, quattro ci sono i denti. Ciao Luci, sentiamo. Ah, sì, intendivi tu. Cosa stai dicendo? Ho capito. No, stavo dicendo, ero passato d'accordo da Gio Maria e Magazzino. Vabbè, alla fine me li ha fatti vedere quei TMR, sono una meraviglia, nuovi, senza neanche un grasso. Gio Maria c'è tutta roba nuova, non è una roba vecchia. Già lo so. Gio Maria le cose ci tiene. Oh, adesso mi sa che oggi c'è la cena di Don Bosco, mi sembra, oggi fanno la cena all'oratorio. Aggregati. Sì, aggregati, già mi ci metto in quella cena, dipende sempre se la butto io, se no non ci rimango neanche. Sì, ti porti pure a Graziano. Sempre se Graziano vuole venire. Grazia. Ah, poi c'è Gio Maria. Dimmi. Bravo, stava dicendo Vittorio che gli ha fatto vedere la radio. E a come origine lo fa? Ah, come la nostra, Come la nostra, Già è meglio, là. È diverso, là. È per casa, dai. Ah, ho capito. Aggiungamento, grazie, farà tutti sì. Il Luca, che momento? Cosa l'ho detto? Vabbè, dai, questo già mi sta ascoltando, sto facendo roba. Ma ti rendi conto, sempre vendi cosa, ma no. Ma quando ti riposi tu? Quando vai al cimitero? Stanno buro, allora, vieni a trovarmi. Ah, Luca. Luca. Allora, prima se di fare cavalieri ti chiamo Magnaco. Quindi noi domani in campagna abbiamo corsi di farfalla, Giovanni. Ma che? Ipa! Dai, riprendete voi, dai. Flippe, belle sono quelle zuppe che ho mandato. Meno mandare a Gio Maria, amiche, quelle scaldano troppo. Quelle si sono proprio a temperatura soffocante, hai visto? Un bel cotto, avvisami che sto scendendo, mi porto anche la sedia, Luca Uramironi! Aspetta che stiamo parlando di soffocamento, che Luca lo sa! Manda a Gio Maria, manda! No, che se no, c'è il pericolo. Ma mi rimandami, roba strana, non mi rimandami, mi raccomando, Ma tanto tu mi sei stufi, non li sai trattare. Mi Luca le può trattare, ma non gliene mando neanche a lui. Già c'ha la sua stufa. Se ha fatto il metto di amarraggio io, non ti preoccupare, forse è meglio di Luca pure. No, io vivo. Beh, c'è amarraggio, va dai. Non è che ci deve visitare a cena, salti Luca. Si mangia cosce di pollo. No, non è voglio pollo, l'ho mangiato l'altro giorno. Coscette di pollo con patate, alette, no, basta, alette con i peperoni anche, no, non ne voglio. Si rosa da voi, ma sale è capace, mi discende a cazzo l'uovo in un letto. Mi spiega a te, te ritendivi. Te ritende, ti sei invitato giù, ma è meno. Diglielo l'uomo. A me mi devi preparare una bella vestina di cavallo a dondolo, vero Luca? E allora, così di farfalla, zampette di anguilla, bonari di so, impanati e fritti. E allora, bisogna tenersi leggeri, specialmente la sera. Io da poi mi mangio una bella capricciosa. A te lo ti ho mandato, c'era per salotto, ti piace quello lì? Ti metti lo zucchero e te lo mangi. No, che chi ci mi avvelenati, è troppo rante qui. Beh, è quello che fa bene. Quello che fa bene. Luca, non era una mela quella che mi aveva mandato Gio Maria, era un po' un pelmo, quanto una palla, Non credo, io mi ricordo quando sono sceso, dagli una mano, c'erano le pere belle grandi, belle, ti ricordi Gio Maria? Ehi! Questo non l'ho messo uno, però solo strano è. L'ha messo prima, l'ha messo un saccaccio, tutti grossi poi, ma maduri i gatti. Questo anno invece alla secchina ne ha messo uno solo, gli altri ne sono scesi. E questo è più piccolo, anche più grossi di quello che ho fatto, che è un Tagraziano. Molto più grossi, ne fa due di quelli di Tagraziano. Ah, me la cotogna o buon pelmo, cos'è? Per me. Che se c'è, racconto parole, io sono parole come è. Guarda, il pallone era così. Chicchiata. Ehi, ti sto dicendo che sarebbe una bocca aperta la gente quando li vede che quello di dire a me l'ha portato, non ci credevo, no. E l'ha portato a un socio, gatta, e si sono detto, io ci sono detto, cosa è buon fermo, Certo, sto dicendo, è una cosa incredibile quanto mette grosso, guarda, ma duri e buoni. Posso immaginare. E a te ti piace Luca il pompelmo? No. E anche a me, l'avevo comprato a assaggiarlo, in Piazza Lessini, un 4-5. Gli altri li ho lasciati per bella figura, là, per il profumo. E si sono guardati alla zona e da me si erano lampati. No, non piace a nessuno qua. È troppo velenoso. Invece piace a me di gente, piace a me di gente, poi se lo ottimo rimetto appena il zucchero e rimane più dolce, ma fa bene, questa roba fa bene, specialmente questo che ho io, fa bene a tutta la persona. Lo so che fa di me, ma non mi piace. Beh, preferisco più mangiamo un limone che altro, il limone me lo mangio. Anche così mi, un ammosso, un arancio di quelli dolci dolci, in campagna ci sono, ogni tanto uno me lo mangio, però non di più, a chi mi salta la glicemia alle stelle. Vabbè, a chi se non piace a uno chiaro è normale, non è che a tutti piacciono. Sì, è così, vai lu. La mela ghidonia mi piace, buco di sentire alla bocca, io mi lavagno tranquillo, chissà. A paletta bandino ne mangia sentire alla bocca, invece a me mi piace di più. Vabbè dai ragazzi, io chiudo, ciao Luca, ciao Graziano, ciao Gio Maria, c'è chi è in assolto, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Vittu, comprato ce l'hai la radio? No, ma la fate solo vedere, comunque già c'è i soldi, già gliela compro, gliela vendo, dai. No, io vedo che me ne intendi diverso, dai. Vabbè, quando mi compro, dai, vi saluto, ciao ciao. Ma quest'anno mi, non all'altro anno. Beh. Perbacolo. Vero Gio Mari? Vittorio ha detto quando c'è il soldi già se la compra. E la giustema quest'anno mi però. Me ne chiede pane. Trascato quello. E zitto, me ne conservate c'è sempre che lui. Eia, ma è la giusta Vittorio così. Sta chiudendo, ciao Vittù, fai la brava e vai a scuola, domani. Eia, eia, ciao ciao. Ciao ciao. Ha chiuso domani. Ciao Vittù, ciao. Allora, è passato uno con la ragazza, forse chi era? Adesso mi sto pensando, io pensavo fossi Vittorio, invece no. È passato una ragazza, chi resta mi ha salutato, mi sembrava, non mi sembrava, preso per Vittorio, invece Vittorio è più magro, più piccolo, è Cianturi e Pagosso, era a Tremumbolo, stamattina è passato avanti con la ragazza, a maluzzetta la bussava. Ebbene, c'è lì si bugia, fatti bene, io la mia aliata, parlo sicuro. Ma io avevo preso per un'altra persona, capito? Invece no, era Bombolo. Vediamo se Luca ha finito di arrostire. Luca! Luca, tira quelle alette che se no si stanno bruciando! Magari ti manda la fotografia, che si rimagna, non si fa vedere la fotografia. Chi è? Che brava! Luca Flipper! Oh, chi se Magnelli, è a Rossella Magnelli. La faccia luce, allora, cosci di pollo, a rotto di collo, però lui vive in maglia. E la bocca, casa a casa, ricordo un pizzico di sale, ricordo una succiata. Luca. Cioè, ma tu chiami a me, rispondi Graziano. Prova, c'è la grazia, ma rispondo io. Beh, sono il tuo capito così, faccio, ma c'è, Luca, io ci muovo quell'altro, tanto per non confondere, capito? Cosa vuoi, Luca? Se lui è bello, quello su cui ha l'endalona, allora. Ma bisogna togliere la... il nominativo, bisogna togliere, bello non mi piace, per cui non è più bello, è diventato di brutto, è diventato, sì che è bello non può essere, bisogna dare un altro nominativo. Questo qua era in De Luca. Ma Luca Flippero c'ha quel sorriso sbagliante di 33 denti. Ah, vero? E allora, vero Luca? Luca è impegnato, Luca è impegnato, ma masticando sai Luca? Ah, Luca anch'io, no, giocando sto. È ben risolto l'avevo, fatto la stufa. No, sta sempre dando lo stesso problema. Ma adesso vediamo, cambiamo un po' di questa. Ecco, prendi freddo, Cazzo, c'è il stufa in stati mari, Se già accesa, già scalda, Sai che c'è questo accumulo di pellet, un giramento di scatole. Cioè, vedete, il bracciolino pieno e il pellet lì fermo nel bocchettone. Boh. Cazzo. Bisogna controllare, ha fatto lei quel lavoro che ti ho detto io, a entrare su quel sito di quella stufa. E farti vedere come bisogna fare. Ma tanto Gio Mari sa che è il pellet, capito? Che sa il pellet? Ma poi basti pure. Perché lo si è bloccata l'uscita del gas della stufa, che lo si è bloccato. Cazzo, bisogna controllare bene se è tutto libero il tubo. Adesso è tempo buono, Giovanni, non fa. Bisogna smontare e fai vedere un po' cosa si può fare. Quanti metri ne ha di tubo? Quant'è ogni tubo? Quant'è? Mezzo metro? Quanto è? Un metro? Penso sia 1,50 m. O un metro, ma non so quanti, se da 1 metro, 1,50 m, ma quanti sono, grazie ogni elemento di ridubbio? Ce n'è da 1 metro, da mezzo metro, da 1,50 m, dipende la distanza uno e prende tutto il capo. E tu calcola il primo pezzo, quanti pezzi ne hai? Io ne ho uno, un metro, due metri e un altro da mezzo metro, una curva e mezzo metro. Vabbè, io parlavo di Luca però, non di tuo. Per vedere se è libero, come si chiama il capo, quello capo grosso che ce l'ho sottoglio, per vedere un po' se è libero il tubo, se non è libero, capito? Però bisogna sapere quanti elementi c'ha lui. Sei, 7 mesi, Ecco. E poi dovrebbe avere un bicchiere dove si deposita quello, la polvere, capito? Dovrebbe avere un pezzo di dove scende tutta la cenere, capito? Dovrebbe avere un bicchiere, capito, quello lì, bisogna controllare quello lì se è pieno e bisogna svuotarlo e più metterci il cavo che ho io a infilarlo dentro e pulirlo tutto quanto per essere libero, capito? Sì, l'espressa rabbia ce l'hanno tutti per forza, sì. E ieri diciamo che c'era un po' di deposito di fuligine, capito? C'era. Poi quando picchiavi tu mi scendeva, solo che c'era troppo vento e te lo buttava via per tutta la casa. Mi avevo messo di nuovo ispezionabile e l'ho pulita internamente, però... Ecco. L'ho tolto l'ispezionabile, ma ce l'ha toccato a fare il pulizio e poi ce l'ho rimesso. Non ho capito. Vabbè, comunque tu bisogna pulirli perché sicuramente... Io sto pensando che quel pellet sia un po' umido. Perché per 7 metri si può controllare subito se è pulito oppure no. Più quel bicchiere se è pulito oppure se è cenere che non passa bene lo sfiato, capito? Una volta che quello lì è libero la stufa deve funzionare bene lo stesso, capito? La pellet non è un problema perché un sacco di un altro tipo o un po' si può prendere, capito? E provarlo sempre che sia da quello, ma no, bisogna fare le prove. Sì, ma sicuramente per quello non ce la fa bruciarlo bene o magari proprio il tipo del pellet, non lo so Giomari. Comunque ho notato che il colore è più, ci sono due tipi di pellet in mezzo in questo sacco, c'è quello chiaro e un po' più scuro, che magari quello più scuro non ce la fa bruciarlo e l'altro sì. E adesso vediamo, appena lo finiamo, tanto ne abbiamo aperto già un altro sacco, quello è di quello bianco, non è bianco, però è quello che prendeva l'Eurospin e lo bruciava tranquillamente, senza problemi. E allora quello che c'è, lo togli, lo svuoti completamente, il serbatoio e si butta un altro tipo di pellet. Sì. E l'accendi e vedere un po' se funziona bene, vuol dire che non c'è niente, dipende proprio dalla pellet o lui, così bisogna fare, sennò si a chiamare ogni volta il tecnico e va poco di là un tecnico, ogni male è tanti presi, capito? Sì, vabbè Giomaria, svuotala non fa, svuotala perché c'è una griglia e quella griglia non esce. Ma se ci sono 4 viti, te la levo io qua, cioè sono 4 viti, levo le viti, sono piccoline, piano piano le prendo in mano e le rivolgo a mano. levo la griglia e do una spezionata dove c'è il serbatoio, dove c'è la vite senza fine, e a controllare se vede qualche mondezza dentro. Anche una volta mangiavo un pezzo di filo di corrente proprio all'imboccatura della ruota senza, della vite senza fine dove scende il pellet. Boh, qua è messa in casa, non ce ne sono vizi, vero Maria? No. La griglia dove metti il pezzo, non esce quello. Non lo so. Se non esce. Tu te ne devono uscire per ispezionare la vite senza fine. La capisci, se guardi bene, vedi quando è fredda, che già si può levare. Io l'ho smontata da poco. E la sera ho fatto finire quasi tutto il pelle, ce n'era un pochettino. Ne ho levato la griglia, ne ho levato con le mani quel po' che c'era, e c'era quel pezzo di filo dentro, un filo che era in mezzo al pellet, e questo bucaccione che aveva comparato di pellet. Mondezza. Beh, grazie, quello tu lo sai, no? Come bisogna fare, che costa poco l'attimino, e te lo fa vedere Luca, devi far vedere come fai, come lo fare, capito? Se una cosa si può fare a fare di noi, è meglio, capito? E vai a far risparmiare un saccaccio di soldi, capito? Sì, ma non sono tutte uguali, Gio Marie, le supe mie, anche stasera ne stavo guardando un po' di quelle che stanno venendo usate, ogni avverruveccio, ci sono tanti tipi, capito? Però per ispezionare lì dentro è svoltabile per forza quella griglia lì, ce l'hanno tutti, però o di questa la mia o di questa di la mia si può smontare, capito? Se no come fa a fare ispezionare la vita senza fine? Luca! Basta vederla, capito? Se si può fare, almeno lo dice, fai così, perché intanto su per giù più o meno sono quasi tutte uguali, capito? Più o meno quel tipo è sempre della stessa fattura della tua, dovrebbe essere così, sicuramente non lo so io come quella che c'ho io, quella che c'ha a Marina, non so se è del tipo come la mia o come è la tua, no, non te lo so dire, però in qualsiasi tipo è, quella retina si può slevare, o a vito, a incaccio di nebo bugà. Tutto si può levare, allora che si può levare sì la retina, si può levare sì. Capito, io ripeto, se l'avrei vista magari avrei potuto dire ecco, bisogna fare così, bisogna fare là. Se lo si vede, se lo la vede uno, certo, magari tu magari sarei pronto perché il tipo della tua super giù sono così, quelle super così, capito? Sempre sia più o meno così dritta, capito? Verticale, la mia è orizzontale. È diversa, capito? La mia di quelle strette è lunga, capito? Orizzontale, mentre la tua è verticale, come può essere quella di Luca, penso io, così è verticale la tua. E la mia è verticale, per dire, ce n'è una in vendita usata, 100 euro, però c'è da cambiare la ventola. Quella si può pigliarmi, ci ha messo la ventola, è una stronzata. 4 viti, compri la ventolina, la ordini da internet e vai la zuppa nuova. A chi deve essere andata sotto sforzo, quella ha bruciato la ventola, capito? Però si può aggiustare, le vintenni 100 euro. Ma forse è nuova, c'ha un anno. Lo so che è nuova, se me l'ha detto Paoletta, me l'ha detto che ce l'ha da poco Marina. Sì, ma non c'entra niente, la tua lì è fatto di pellet che non andava su pellet che hai buco. E ti hai sporcato tutti i tubi, ti ha sporcato. E lì devi pulire bene tutta la zuppa e la tubatura. E c'ha ma pelle, se solo a mezzo. E vedi che la zuppa non va nulla. Ma magari è una cazzata, è una cazzata, magari è cattivini vuole un freddo, capito? Oh, no. Ehi, avai, no, chi la zia di mia moglie. E ci vuole un motore, la gente si mi la dati, non mi ha voluto usare, ha detto che ce la deve accusare, invece è imburata, gli vede nuova nuova. Ma come mi l'avevi data, non è se mi l'avevi accorta, è presso a burro, perché è anche più grande della mia, è bella pure, solo non me ne dà. Ah, io ho visto questa di sotto a me, no, è di quelli verticali, e voleva sapere, anzi, è chiamato il tecnico e l'ha avuto 150 euro per pulirla, per immaginare. Allora, Luca, ti sei messo una mezz'ora, gli era tutta pulita e funzionando, e questa gli ha fatta Luca. Eia, ehi, così, a chi si ti piace, ho aumentato un burro, adesso si quarta e va, quando lui già mi ha pulito la zuppa, ma buffonendosi, pare che la gente di dinale non ritravaglia che li buglia, 150 euro, ma lo tennante. E per chi ce l'ha, va bene, a chi non c'è la possibilità, ma scherzando sai. Ma io aspetta Luca, gli ho detto, si avrebbe chiamato l'altro Luca, magari avrebbe messo quello Luca, l'avrebbe bene controllata e avrebbe funzionato perfettamente. Perché bravo Luca, mi sembra lui, ma è bravo, si ingegna parecchio in queste cose, vai. Cazzo. Esatto. È nuova la stufa, capito? E loro dovrebbe essere garanzia, ma siccome non è stato fatto il contratto della garanzia, dice che garanzia non ce l'è. Chiaro che se chiama il tecnico, gatto, bomberà. No, se io posso provare, gatto, che se ne intende un po' e la controlla. Eia, eia. Beh, io chiudo, dai, mi do fare l'insulina. Ce la sentiamo domani se coincide. Ciao Gianmaria, ciao Luca e ciao chi è in ascolto. Al prossimo giro. Vai Gianmaria, chiudo. Ciao, grazie, va, saluto da Rosi, vai a casa, ci sentiamo. Oh. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Hey, you. Saluta Paoletta, ciao, anche da parte di Maria, ciao, ciao, ciao. Ciao, saluta Paoletta. Ciao Paoletta. Ehi, ha ricambiato, ciao, ehi. Sta guardando la TV in camera da letto, Mari. Ciao, ricambiato. Dov'è? E lui? Dov'è? E che... Ehi, you. Ma andate, dai, ci conoscete più, no? Non le vedi? No. Aspetta, non so che io... Che frigione mangio mangiato? Giovanni, ma grazie alla ripidari, Ah? Grazie alla ripidari, siete in mezzo a Sarrendi, Preparati, che si devi... Devi so che tu sei meria, non mangia. No, secondo me va, ne rimedi va l'usari, a parte la bocca in nido. Se lo sai si muore allora, gli induisce, senta, è Cavagliago. Ehi, te mala. Lo rispondi. E la domanda di prigione, però che si gossi. Aspetta, ogni tanto sa cambiare che cosa. Hai usato serio una volta, ragazzi. Stavolta facciamo leggeri, dai, un po' di insalata, qualche frutta e una spinacina me la mangio, molto volentieri. Mi raccomando, piano piano, bene, insalata, chiaro, se no, va bene. Cosa ci mette l'insalata? La tuga? No, perché, ma mi sa che la spinacina me la porto masticata da Graziano. cazzo non le mangia, mi sembra insalata. Non le mangia? Ma... Oh, io apprezzo tutto. L'insalata a me piace anche metterci la cipolla, capito? Affetti. Mi piace molto la cipolla. Ma cruda? Cruda allora. Rapida, taglia a fette, la fai a fette. E me la metti in mezzo ai pomodori, ai finocchi, alla lattuga, a tutto, capito? E in mezzo. Aspetta. E mi piace parecchio a me, capito? Beh, boh, vediamo sempre più buono, dai. Poi specialmente quella bianca, a me. Scusa, no, Giovanni. Ma a me la cipolla mi piace molto quando fanno i panini con i giusti, ma anche con i salsiccioni. Le cipolle e ketchup, sì. Però cucino, cruda no. Sì, no, quando faccio le uova io, poche le metto cipolla. E quelle grosse pure, ci affrettate e poi ci butto l'uovo sopra, capita. Che a me piace molto, Le uova, sì, la faccio soffrire bene la cipolla. E poi mi piace, vabbè, le uova non le posso mangiare, perché sono uguali, mamma mia. E poi ci butto le uova, le giro, ora le piso, mamma mia, non mi piace molto. Già, credo che siano buone. E ogni tanto anche noi ce li facciamo, capito? Sì. Anche noi ce li facciamo, ci metti i fusteri in mezzo, cazzo, quei fili, quei grossi pure, e insomma, e poi se ci metti il salsiccione è meglio ancora, quello mezzo piccante, capito? Atta, oh ya. Siamo a panino, mi sa cosa lasciare, oh ya, me ne mi indagoro. Sì, vabbè, cruda no, però Giovanni, no, cruda no. La digerisco meglio cotta. Ma è l'insalata, deve mettere cruda, deve mettere cotta. Tu. La deve mettere cruda, affetti. Non larghi, larghi. Certo. E lì ha l'altro sapore l'insalata in mezzo, capito? Ma non è che le metti. Metti tanto, no, capito? Tanto per dare il sapore, ecco. Sì, ma non le metto, Giovanni, perché mi rimane sullo stomaco. Allora già l'altro vuol dire tu sei allergico al cipolle. No, cotta le mangi. Vabbè, adesso un po' di meno, dai. Però se capita che magari ci sono quelle quando fanno le feste, se capita che ci sono quelli che fanno i panini, ci passi vicino e un panino con wurstel, cipolle, ketchup, la sua morte. Ehi, come metto le salsicce anche, salsicce fresche, gatta, cotto, e poi le cipolle in mezzo, gatta, pagliarini, visci, da quel sapore che è un mammo. Poi le metti quella roba rossa, come si chiama, non ti piace a te? A me non mi piace, ma ce lo so che si mette quella roba rossa, cos'è? Il ketchup, Gio Mario, oppure la salsa rosa. A me non mi piace, noi la compriamo per mia nipote e ne fa pazzo per queste cose. Ogni tanto andiamo e compriamo un bel vasetto e a lei gli piace parecchio. Diciamo che gli dà il suo gusto, dai. Però ho mangiato così. Noi ogni tanto, adesso siamo da morto, non andiamo lì in via Napoli, ci fa il panino, quei panini grandi al latte rotondi, no? Wurstel, patatine, ketchup ecco la cipolla, ma buono, se usa il cipolle moro o la salsiccia di quelle fresche, sanno quel sapore buonissimo, capito? È tutta altra cosa, quelle che fanno anche alle feste eccetera, capito? Anche lì infatti, anche noi tutti gli anni andiamo in paese, no, di mia moglie, alla festa di San Lorenzo, e lì, noi ce li amo lì, Catta forse trini, catta. Ah, è poco vedere i soldi che ci mancherelli cosa sicuri marini così me. Catta solo, ma mi fa venire appetito a me. E noi mangiamo panini così quando andiamo alle feste, capito? Andava, no, già sono buoni, dai. Ci vuole un po' di ketchup, non so se a te non ti piace, c'è anche quello piccante. Poi li metti poco a poco, c'è il buoni truppo, è stomachevole. Eia, eia. Va bene, là, chiudo. Ci sentiamo domani, dai. Salutoni a Marina, dai. Ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Buona cena, a domani. Chiudo lui, ciao. T'ho contraccambiato anche da parte sua, sono terminato a 50. Ciao Giovanni, buona cena anche a te, a domani, ciao. Ok, ciao. Ah, Luca, ragazzi. Primo, ciao a te. Sarò per il secchetto domani. Quella chiusa, ciao. Ci siamo interrato stanotte, ciao Giovanni.